nessuno come fai il boom boom shakalama di tutti quanti affari. Culo Radiazione 4 novembre 2013. Noi non festeggiamo la festa delle armi, delle forze armate. Delle forze armate. Anzi, si saluta con gioia la notizia che arriva da Atene, dal quartiere di Neo Eraclio, dove la partita per ora sta finendo per 2-1 a favore degli antifascisti. Allora, a parte questa breve introduzione, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per la mail, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di comunicato scritto, documenti, consigli sui libri da leggere. Noi lo ripetiamo ancora, ripeteremo per sempre, voi scrivete è quello il casino, cioè arrivano le mail, però per quanto riguarda le letture sempre zero. Chi ci acconsente, quindi va bene, vuol dire che abbiamo scelto dei buoni libri fino ad ora. La mail radiazione@autistici.org, invece per il blog radiazione.noblogs.org, dove potete andarvi a rileggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, oltre a riascoltarvi tutte le dirette d'azione attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione, scaricarvi qualche opuscolo, qualche libro, qualche manifesto, qualche cd, insomma c'è un po' di cose sul blog di Radiazione. Il link per la radio, per chi l'ascolta, chi la sta ascoltando, è inutile che lo ripeta, però comunque radiazione.listentumaradio.com, altrimenti attraverso il blog di Radiazione cliccate sul banner il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e attecciate Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano prima di iniziare con oggi si porterà a termine il libro La Zandraglia con Marcello. Poi a fine diretta vi daremo anche l'anticipazione su quello che sarà il prossimo libro. Vi posso solo anticipare che sarà una cosa molto... si resta... un altro mare. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di One of It, Open Your Eyes, e dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura della Zantraglia. Allora, ritorniamo per mare, lunedì 4 novembre 2013, noi rimaniamo fieramente a bordo della marina mercantile, una marina che non ci piace, ma che comunque ci piace di più di quelle militari. Eravamo arrivati nel passaggio che da Alessandria d'Egitto ci riporta verso il Mar Nero, verso la Turchia. Siamo sempre a bordo di un cargo nel Mediterraneo orientale. Ci eravamo lasciati lunedì scorso con una... strana partita di calcio giocata all'interno di uno dei garage oramai quasi vuoti, perché la nave si sta avvicinando in una delle ultime tappe, un porto turco di cui poi leggeremo i dettagli. Per adesso ci troviamo quasi allo stretto dei Dardanelli, sulle colline all'ingresso dello stretto famoso dei Dardanelli. Troviamo una scritta in turco, Dur Yolku, che nella nostra lingua significa fermati viaggiatore. L'allievo ufficiale si presenta in plancia bardato da una fasciatura da provetto allievo del corso di first aid. Il comandante lo richiama all'ordine. Smettila di parlare, ciccio bello, vieni a lavorare che ora ti faccio vedere Troia, che non è tua sorella, non ti preoccupare. E poi si concede una sonora risata. Siamo all'imbocco dei Dardanelli, la porta d'ingresso del Mar di Marmara. È ancora giorno e la città dello stretto, Canaccale, non distante per l'appunto dall'antica Troia, è ancora lontana. Una linea di pale eoliche ci accoglie alla soglia di due continenti, l'Europa e l'Asia. La nave è uno dei punti di una schiera a ventaglio fatta da una ventina di mercantili che aspettano di incalanarsi verso Istanbul. Lo stretto è servito da piloti, è un braccio di mare troppo intricato e quindi bisogna conoscerlo. Le due estremità della costa sono presidiate da postazioni militari con la bandiera turca sventolante. I soldati sono attaccati ai binocoli per sorvegliare il traffico. Le strutture in cemento armato sono vicine a quelle dei bastioni medievali veneziani e ottomani che ancora oggi resistono agli strani inverni dei Dardanelli. Qui la neve non è una rarità e l'acqua aggredisce la linea costiera, ma gli antichi bastioni restano impettiti e illuminati da riflettori diventati ormai elementi del paesaggio. Dalla direzione opposta arriva un interminabile convoglio di navi. I gabbiani si fermano sulle alette laterali godendosi il vento. Uscire sul ponte è difficoltoso, spira un libeccio assai aggressivo. Il canale è diviso in due corsie immaginarie. Bisogna regolare la velocità e a un certo punto i sorpassi non sono più permessi. Perciò in prossimità dello stretto le navi iniziano a sforzare i motori per lasciare i concorrenti della corsa in scia. Lo Strait Control, il controllo dello stretto, regola il traffico mandando le pilotine avanti e indietro. I piloti passano da una nave all'altra e si impiegano più di 6 ore per entrare nel mare. Due cargo russi si superano a vicenda, sembrano giocare. A Valia, una portagrano che poco dopo viene superata dal Diepner con il profilo segnato, marinai arrugginiti scrutano la poppa. La meraviglia dei Dardanelli fa intenerire il più duro degli uomini di mare. Il Diepner sfalia, che invece arranca. Il gioco si ripete finché il nostro cargo, simile in tutto e per tutto a un grosso capodoglio giallo di metallo, sorpamente indietro. I gabbiani corallini dalle ali bianche, le sterne dalle zampe nere e le rondini di mare volteggiano sulla corsa delle navi, scrutano con attenzione il mare alla ricerca di pesci affioranti. Il cielo intanto è diventato viola, le luci costiere iniziano a traballare man mano che ci addentriamo nell'insenatura tra i due continenti. I ragazzi della macchina mi chiedono cosa ci sia di tanto straordinario in questa terra che dal cargo sembra così anonima. Pini mediterranei incorniciano il sacrario dei caduti del mare inglesi. La costa occidentale, l'Europa, è buia, mentre l'Asia, la costa orientale, brilla di mille luci che si inerpicano sulle colline. Si riconoscono i fari delle automobili che viaggiano, si indovina il percorso curvilineo e male illuminato della strada costiera. Passiamo il mausoleo dedicato a Kemal Atatürk, il modernizzatore della Turchia, un tripudio di neoclassico e bandiere rosse con la mezzaluna bianca. Il comandante dà alla leva ufficiale di Roma una ripetizione sintetica delle gesta degli eroi omerici dell'Iliade: il Pelide di Achille, Elena, Agamennone, Ettore, Paride, Priamo. Il master li vede correre nelle bighe, combattere corpo a corpo, riesce a sentire il respiro degli opiliti stipati nel ventre del cavallo di legno. Giacomo, il primo ufficiale, guarda incredulo la costa. Sono storie molto simili al fantasy, hanno un qualcosa di familiare. Ma tu lo sai in quanti erano a fare la guerra, eh? 100.000, 200.000, rispondi. Non sai la nautica, ma qualcos'altro lo sai. Il comandante infierisce sulle difficoltà di Giacomo. Non lo so, direi tanti, credo forse più di 10.000. Ecco, lo vedi, con quei riccioloni che ti ritrovi non potevi essere che una capra, una bella capretta. Erano in pochi a fare la guerra, erano pochi anche durante le crociate, pochi a prendere possesso di tanta terra. L'assedio di Troia l'avranno fatto tutta più in 1.000. A quei tempi le navi erano piccole, era tutto e tutto ciò era più grande. Erano gli uomini ad essere più piccoli. Per arrivare in Grecia ci mettevano 1 mese, la stessa distanza che noi facciamo in 1 giorno. Hai capito, caprettina di mare? Ah, incredibile, io credevo che era una specie di Iraq, comanda. Però con i combattimenti corpo a corpo, con le lance. Il confine politico tra Asia Minore ed Europa è più a sud ed è frastagliato, ancora incerto. Arriviamo al promontorio dove si staglia la statua di un soldato che intima l'Alt. Una scritta di marmo è incisa nella vegetazione e dice: fermati, viaggiatore. La radio gracchia e il master bestemmia: dobbiamo fermarci, dare la precedenza a navi che però sul display non appaiono per nulla. Si vedono soltanto i cargo che ci precedono o che seguono. E il secondo ufficiale chiede: comandante, ma chi... Il master non lo sente, è alla radio, sta trascrivendo un codice che poi passa al terzo. Sullo schermo appaiono d'improvviso l'esagono di una formazione navale marziale. Sono 4 cacciatorpediniere, 2 fregate, una nave di assalto anfibio e una portaelicotteri statunitensi. Corrono verso le coste della Georgia ribelle. Rallentiamo, ci mettiamo al lato come fanno le navi dell'altro senso. Le sagome scure e poco illuminate dei mezzi della Navy sfilano silenziose. Un elicottero pesante Sikorsky sorvola la scena scacciando gli uccelli. Quelli meno scaltri vengono risucchiati dalle turbine e delle pale. Corre la squadra d'assalto. Il mondo ancora non sa del loro spostamento. Hanno l'ordine di mantenersi discreti, ma non rinunciano alla parata navigante. La Star and Stripes sventola nel chiaroscuro del crepuscolo. Dalla radio è un continuo gracchiare. Stay behind, this is a security maneuver. Cala la notte, Canaccale è passata e anche ai Dardanelli il buio diventa pesto. In plancia ci abituiamo appena all'oscurità quando compare un punto luminoso che si avvicina, si ingrandisce, prende la forma di una grande nave da crociera illuminata dal gran pavese che si staglia sul ponte. È una signora dei mari vestita in abito da sera. La notte attutisce la sgradevole sensazione che le crociere danno alla luce del giorno quando diventano alberghi galleggianti. Ma ora tutte quelle luci nel buio ci catturano, sono un magnete che ci attira al vetro. Alcuni escono sul ponte, la nave conserva un che di magico che ci fa resistere al vento. Sembra un fantasma o un'apparizione degna della fantasia di Jules Verne. È una meraviglia meccanica, un primate dell'era dell'elettricità. La brina salata le conferisce un aspetto incantato. Sembra godere di una luminescenza naturale simile a quella dei calamari. Ci mette poco a scomparire. In un niente, esce anche dal fuoco del binocolo. Just a trick of the lights. there anyone there? Loro erano The Chameleons con il brano Monkey Led Land. Ora si passa alla controinformazione, si va precisamente in Grecia, dove c'è uno scritto dei compagni arrestati il 1 febbraio scorso per la doppia rapina in Velvetto Kozani. Allora, l'ho scritto: il 29 novembre 2013 inizierà il processo per la doppia rapina a Velvetto Kozani. Si terrà nella sezione femminile del carcere di Korydallos e non come annunciato all'inizio nel tribunale sulla via Lurkareos. L'aula, sacro bordello della giustizia, è sempre stato lo spazio dove la classe dominante, l'autorità, ha dimostrato il suo dominio sugli illegali di questo Stato. Ecco perché la questione della solidarietà è un fastidio permanente nel caso degli anarchici, e i poliziotti di ogni categoria, antisommossa, in borghese, antiterrorismo, si affrettano a riempire le aule nel tentativo di ostacolare l'espressione. Comunque, visto il fallimento di queste pratiche, con l'evidente interesse di rendere sicuro il trasferimento dal carcere al tribunale di un nutrito gruppo di anarchici, hanno risolto entrambi i problemi grazie alle aule speciali, due per ora, dentro la sezione femminile. È ovvio che il cambio di sede è il risultato di entrambi i motivi: da un lato il minimo rischio a livello logistico e dall'altro la registrazione di tutti i solidari che vorranno entrare. Per noi la sede non fa differenza, l'ala è un territorio ostile, che sia in prigione o nei giardini pensili di Babilonia. E se la tattica di registrare ostacola la presenza dei compagni in aula, niente e nessuno può fermare la forza che avremo da sentire le voci e le urla che entreranno oltre le mura della prigione e i furgoni blindati. Un presidio fuori al tribunale può rompere l'isolamento che vogliono realizzare. Inoltre, per noi la solidarietà rivoluzionaria non si limita ad eventi di supporto in occasione delle udienze, La corte non è altro che lo spazio dove il nemico convalida la propria vittoria e il meccanismo di assimilazione della violenza repressiva nell'ideologia democratica. Soprattutto nel nostro caso non ci sarà la solita pressione sui giudici per avere sentenze più favorevoli. Le decisioni sono predeterminate e questo non ci interessa, dato che abbiamo una condotta ostile verso i giudici non perché ci prendono di mira, ma perché il loro lavoro è distruggere le persone sotto lo stabile dell'autorità statale. La solidarietà è una relazione continua, le sue forme di espressione sono varie e trovano concretezza nei momenti di attacco al sistema. E ovviamente un presidio può essere uno di questi momenti per chi vuole farlo, ma non è un presupposto o l'unico momento per la solidarietà. E soprattutto la solidarietà con i rivoluzionari prigionieri non è una statistica dettata dal momento, è un bisogno, un'emozione e la realizzazione di una comunità di lotta, con ogni mezzo scelto dai compagni per esprimere la propria solidarietà, sia con la presenza fuori dall'aula o con l'attacco alle rappresentazioni del dominio coinvolte nel nostro processo. In chiusura vogliamo chiarire che tutte le relazioni tra compagni che ci uniscono, la nostra comune visione della libertà, i sogni che condividiamo non saranno mai incrinati da qualsiasi tipo di divisione riguardo alla gestione del processo o dalle diverse accuse a nostro carico. Il fatto che alcuni di noi avranno gli avvocati, ad esempio, mentre altri no, che alcuni rivendicheranno la partecipazione alla rapina ed altri no, non sono motivi per dividere la comunità di lotta che ci tiene uniti dietro le sbarre. In questo processo l'essenza è nel fatto che lo Stato e i suoi meccanismi mettono alla prova gli anarchici avversi al sistema, suoi oppositori. È meno importante come essi cercano di tenerci prigionieri il più a lungo possibile, vedi le accuse. Il loro interesse principale è la nostra condanna come nemici del sistema. Dal nostro lato non riconosciamo la dicotomia innocente e colpevole in questo e in qualsiasi processo a carico di combattenti anarchici. Siamo colpevoli per il loro mondo, colpevoli per la loro innocenza. I nostri pensieri, i nostri cuori sono vicini ad ogni tentativo che cerca di combattere l'autorità. Rabbia, consapevolezza, Fivos Assiris, Agiris Dalios, Giannis Michailidis, Dimitris Bolsukos, Dimitris Politis e Nikos Romanos. E questo era lo scritto dei compagni per la doppia rapina in evento Scozzani. Come dicevano loro, è stata spostata il luogo dove avverrà l'udienza, però comunque, cioè, noi in Italia non rimaniamo stupiti, perché molto spesso, cioè, anche nei tribunali normali c'è stata l'identificazione, non a caso, cioè, l'ultimo, quello per Alfredo e Nicola, addirittura dalle foto anche che sono apparse sui vari siti della stampa infame, si è visto compagni controllati con metal detector, non quello dove si passa in mezzo e si lasciano gli oggetti, ma quelli proprio prima di entrare in aula. Insomma, quindi questa era la notizia che ci arriva dalla Grecia, cioè più notizia lo scritto dei compagni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono DK.com, Friendly Fire, e poi dopo si torna qui e si torna con la lettura della Zantraglia. Jenny Coy, Beluga Project. Una nave fattoria battente bandiera turca procede rasente alla costa. Cerca gli storioni Beluga, le cui uova vengono rubate per trasformarle in caviale. La delicatessen è cibo raro. Le uova hanno bisogno di 20 anni prima di maturare ed essere pronte per le tavole di coloro che possono permetterselo. Un chilo di caviale beluga arriva a costare anche $5,000. Ancora più cara è la qualità alvas, che in persiano significa diamante, e queste sono uova di storione quasi secolari. Il beluga è una prelibatezza succulenta del Mediterraneo e, come i datteri di mare, sono protetti da convenzioni internazionali. Il miglior caviale non è russo, ma è iraniano. E gli storioni beluga sono tipici del Mar Caspio, un mare che interno lo è per davvero. I pescatori della Repubblica Islamica Iraniana sono ben attrezzati, talmente bene che lo storione beluga sta scomparendo. Il pesce negli ultimi anni ha popolato però anche il Mar Nero e il Mar di Marmara, e la sua presenza è forse il frutto di una migrazione spontanea avvenuta attraverso sentieri fluviali ancora sconosciuti. Il Beluga Project è un azzardo. Il peschereccio industriale turco che draga il mare con le sue reti di acciaio flessibile è parte di un progetto di sviluppo della Turchia moderna e industriale, ancorata all'Occidente e diventata mediatrice e portavoce dello stile di vita occidentale nell'Asia Minore, sebbene governata da una politica dai caratteri islamici. Piccole barche di pescatori di Hamsi, le alici, le acciughe, le sarde, calibrano la tensione della lenza e tirano su filiere di ami con decine di pesci penzolanti. Ondeggiano tra gli schizzi del cargo. Loro sono in armonia con il paesaggio. Noi no. Non vedo neanche una gru, nessuna paceco, niente benne, ma anche niente darsene, niente banchine, niente stazione marittima, niente porto. C'è un solo molo striminzito, è allungato con una parte in ferro, tra pietra e metallo c'è una passerella stretta. sembra una di quelle scale di corda utilizzate per passare i crepacci profondi. Tutto intorno cianciole di pescatori. Oltre la banchina di alluminio c'è una distesa di autoveicoli, di container, neanche l'ombra. Per la prima volta, un porto del Mediterraneo orientale non è segnato dai profili squadrati dei contenitori. Non ha pareti, vicoli, strettoie o boulevard artificiali. Un luccichio ambiguo crea riflessi sui parabrezzi delle automobili appena uscite dalla catena di montaggio, pronte ad essere inserite nella filiera logistica. Il cellulare mi vibra in tasca. Non è nessuno, è la mia sveglia. È mattina presto. Sullo schermo del telefono mobile mi vengono recapitati segnali GPS che mi indicano la posizione. La rete nazionale è l'indicazione regionale di dove mi trovo. Stavolta non mi indica il nome di una città, mi indica Ford Otosan, la fabbrica della Ford. Sì, la banchina, i piazzali, le automobili e anche i portuali appartengono allo stabilimento Ford costruito sulle rive del Mar di Marmara. Attracchiamo dopo una manovra laboriosa, il rimorchiatore spennacchiato che ci viene incontro prima ci chiede il cavo e poi si ritira. La cima resta a penzolare sull'acqua tra le ire del master. Gli ormeggiatori corrono sul molo spazientiti, assicurano il cargo alle bitte e se ne tornano alle loro canne da pesca sottili, illusi di poter sopravvivere un giorno in più prelevando alici dal mare. Fa caldo. Per scendere a terra siamo obbligati ad attraversare il deck 10. Le auto sono poche, c'è tanto spazio vuoto. Il sole fa surriscaldare il ferro e brucia l'ossigeno. Mentre attraverso il garage il fiato mi si spezza in gola. La nave è un organismo che si trasforma. I ponti cambiano posizione, i garage cambiano volumetria. L'interno del capodoglio digerisce il carico man mano che incontriamo i porti. A Yenikoi dobbiamo cambiare tutto. Imbarchiamo senza fare nemmeno una sosta. Centinaia di auto. Per far spazio il driver deve mettere a terra tutti i mezzi di bordo, che ora se ne stanno allineati al sole sulla banchina incrostata dal guano dei gabbiani. Le Ford Focus, destinate al mercato europeo, corrono verso il loro ultimo viaggio che le trasformerà in prodotti della società dei consumi di massa. Non siamo esattamente in un porto, siamo ormeggiati ad una banchina industriale. Qui c'è poca burocrazia, le pratiche per ora filano liscia. I portuali indossano l'uniforme della Ford, maglietta grigia e tuta blu. Hanno un congegno POS per catalogare le vetture. Tutto il sistema è informatizzato. Un bip segnala e registra l'imbarco o lo sbarco di un veicolo. A discapito delle apparenze scarne, l'organizzazione è eccellente. È forse lo scalo più informatizzato che abbiamo incontrato fino ad ora. Il capomano portuale parla un inglese discreto con la tipica inflessione gutturale dei turchi. I portuali sono ex operai metalmeccanici, reduci della migrazione turca in Germania. Si sono fatti le ossa nelle fabbriche della Ford di Colonia e Stoccarda durante gli anni in cui la BRD, la Repubblica Federale Tedesca, era il feudo nordamericano in Europa. Parlano tedesco, sono precisi nel lavoro come può esserlo un sassone, cittadino della ex DDR. Il piano di carico è sbagliato. Ci hanno preso per una nave gemella attesa dopo di noi. Noi in effetti siamo in anticipo e sul piazzale sono allineate auto non nostre. Noi siamo semivuoti, per noi quindi la giornata diventa quasi uno svago. Nel porto di Yenikoi la tigre economica euroasiatica turca mostra i suoi denti che assumono le sembianze di squadre di portuali giovani e desiderosi di ricchezza. Guardano le auto vogliosi. Un portuale più adulto porta a spasso una bandiera della jihad islamica stampata su un cappellino dalle fattezze inequivocabilmente americane. La contaminazione dei generi non lascia spazio a incertezze. La sua barba brizzolata è lunga e gli altri lo salutano con deferenza mentre si mette alla guida di uno dei tanti veicoli che imbarchiamo. Furgoni, auto, ancora furgoni, ancora automobili formano un serpentone rosso che diventa grigio e poi bianco mentre muove verso la rampa. Il compound della fabbrica è lontano un paio di chilometri. Bisogna attraversare un ponte sotto il quale transitano i pescatori placidi, sorvegliati dagli uccelli voraci di pesce. Vedi? La fregatura per chi compra queste auto è che pensa di comprarne una nuova, invece di fatto è già usata. Le ruote, gli pneumatici sono già in parte consumati, i furgoni li utilizzano i portuali per andare e venire, e quindi che cos'è nuovo? Soltanto la linea, mi dice il secondo ufficiale gettando a mare l'ennesima Marlboro. Di fronte a noi i minareti si stagliano nell'afa, il sole si nasconde nelle nuvole formando riflessi accecanti sul mare. Nei garage i marinai filippini si contendono il lavoro e si accartocciano sotto auto e furgoni per fissarne le ruote al ponte. Noi siamo in partenza verso il nord Europa. Il rezzaggio deve essere a regola d'arte perché tra breve la qualità del mare cambierà. Una volta passata Gibilterra, le onde si ingrosseranno e diventeranno lunghe. Il rollio aumenterà di intensità e il beccheggio si farà devastante. Non molto tempo fa la nostra nave gemella è arrivata al porto di Anversa con gli interni devastati, il moto ondoso forte e continuato, iniziato a Finisterre e proseguito per tutto il Golfo di Biscaglia, ha spezzato le catene e le rezze che assicuravano i mezzi pesanti e gli autoveicoli. Liberi da ogni fermo, i mezzi hanno iniziato a carambolare per il ponte principale, devastandolo. Dai garage superiori, auto diventate matasse di alluminio, cascavano di sotto, ostruendo entrate e uscite. I boati erano assordanti. Il rumore della devastazione era coperto da quello del mare in tempesta. A bordo se la sono vista brutta. Arrivate ad Anversa, la rampa era bloccata da automobili distrutte, ammassate sulla parete stagna, e impedivano ogni movimento di apertura o chiusura. Un samovar adesso borbotta nella guardiola che ospita i sorveglianti della banchina, guardie giurate e dipendenti Ford. Durante una pausa i portuali vanno a bere il chai e a fumare una Winston Blue. Il barbuto anziano snocciola il rosario mentre chiacchiera con un pescatore dal cappello blu di lana grezza. Tira su una lenza con 10 ami e altrettanti pesci, 2 li rigetta in acqua ma tramortiti. Non riescono a godere dell'insperata libertà perché sono immediatamente vittime di un cormorano dal piumaggio blu notte. La banchina è ricoperta di escrementi e piume incrostate nell'asfalto. Il Mar di Marmara è tranquillo come un lago, le sue rive sono un deserto produttivo, intervallato da agglomerati residenziali ma disordinati. Cantieri navali, cisterne, raffineria, terminal, basi militari, contrastano con le barchette di pescatori, due modernità che si guardano in cagnesco, continuando a mescolarsi. I portuali, dal canto loro, sono un altro esempio di contaminazione, di mutazione antropologica in atto a queste latitudini. I più giovani hanno piercing, cappelli alla moda. Le loro divise sono personalizzate con una spilla, un orecchino o un foulard sbarazzino. Chiedono dell'Italia, sono fan dell'orrido Eros Ramazzotti, sognano la Germania che invece frequenta ancora gli incubi dei più anziani, tuttora indecisi se farvi ritorno o meno come gastarbeiter. Di fronte alla banchina l'intreccio di tubi di un complesso industriale si nasconde in una nuvola di vapore prodotta da chissà quale scarico. Siamo pronti a ripartire, aspettiamo soltanto alcuni documenti che indugiano nei fax della burocrazia statale che mette in scacco le procedure veloci della Ford. Ma anche stavolta, anche qui, le Marlboro risolvono ogni cosa. Stay. Don't you see I only wanna go right today? Don't you see I only wanna go right today? Loro erano Theatre of Tragedy con il brano Machine. Ora si passa alla controinformazione, si va in Grecia, ancora per l'ennesima volta. Prima abbiamo letto lo scritto dei compagni della doppia rapina, il Ventos Pozzani. Ora facciamo un aggiornamento su quello che è il processo ai compagni delle CCF. È un po' datato, cioè della settimana scorsa, però va bene sempre ricordare come stanno andando le cose. Allora si parte dall'udienza numero 67, dove si è parlato di inserire come testi i vertici dell'antiterrorismo che non hanno ancora testimoniato nel caso delle CCF. Nell'udienza 68, l'udienza 68 è stata rinviata a causa dell'assenza dell'accusa. La 69 è stata ascoltata una poliziotta della caserma di Callitea che è testimone dell'accusa per uno degli imputati che non appartiene alle CCF. È stato dimostrato che la sua testimonianza è falsa e basata sulla fantasia. L'accusa ha parlato in merito alla questione di inserire come testi i vertici dell'antiterrorismo, dicendo che la loro presenza non ha nulla di speciale da offrire, visto che i membri delle CCF hanno rivendicato la propria partecipazione e hanno dichiarato che non hanno interesse per l'aspetto legale. Al contrario, ha aggiunto, il resto degli accusati non ha chiarito la propria posizione. Hanno risposto che chiariranno le proprie posizioni durante le dichiarazioni. L'udienza numero 70, la Corte ha deciso che i vertici dell'antiterrorismo non saranno convocati, visto che molti hanno già testimoniato in passato. La 71, la testimonianza di due agenti che hanno preso parte all'arresto dei compagni delle CCF è stata annullata, avevano già testimoniato in precedenti udienze. Udienza 73, si salta dalla 71 alla 73, sono questi gli aggiornamenti che ci arrivano. L'udienza comincia in ritardo e finisce con la lettura del materiale inerente alle prove trovate nell'abitazione a Callitea. Vestiti, un documento di identità falso, manuali per armi ed esplosivi, libri anarchici. In questa casa durante il blitz nessuno è stato arrestato, dato che gli occupanti avevano già notato i movimenti polizieschi e pertanto avevano abbandonato già da tempo la casa. L'udienza 74 ha cominciato con la dichiarazione dei compagni della cospirazione delle cellule di fuoco, in cui affermano di voler leggere i documenti dell'antiterrorismo in modo analitico, parola per parola, punto per punto. E inoltre è evidente che oltre alla nostra rivendicazione e partecipazione che abbiamo fatto, gli inquirenti hanno scarse prove contro di noi. Nonostante tutto non cerchiamo attenuanti o clemenza, al contrario dei nostri oppositori di Alba Dorata recentemente arrestati, noi abbiamo la forza di difendere le nostre idee e azioni. Per noi rivendicare è un atto di guerra in condizioni di prigionia, ma non vogliamo in alcun caso, per la nostra condotta e ostile indifferenza, facilitarvi il lavoro e così far arrestare individualità irrilevanti come gli altri accusati che sono in aula oggi. Ovviamente non siamo avvocati, tantomeno individui così come altri accusati implicati nel caso del CCF, che non sono nostri compagni e non condividono i nostri stessi valori, ma ciò non significa che non parleranno o difenderanno la nostra organizzazione. Inoltre i trucchi comunicativi dell'antiterrorismo e dei giudici sono ben noti. Producete migliaia di pagine di inutili informative al fine di creare un mega calderone che vi torni utile, dalla guerriglia urbana anarchica ad individualità irrilevanti. E se lasciassimo questo metodo senza risposta, un accumulo di sconfitta verrebbe creato e faciliterebbe l'oppressione per colpire domani i veri compagni solidali. Ecco perché, tramite la lettura dettagliata e analitica dei documenti, sarà dimostrato che le tesi dell'antiterrorismo sono state create per tentare di includere individui irrilevanti nel gruppo anarchico della cospirazione delle cellule di fuoco. L'udienza è continuata poi con la lettura dei documenti riguardanti il blitz dell'antiterrorismo nell'abitazione a Callitea. E questi erano gli aggiornamenti per quanto riguarda il processo ai compagni delle CCF. Lo ricordo, manca l'udienza 72, però a noi ce le mandano così, quindi le pubblichiamo. Evidentemente non c'era niente di rilevante. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Nine Inch Nails, Down in It, e poi dopo si torna qui con la lettura della Zantraia. couldn't believe. Sometimes I don't believe in myself, and I decided I was never coming down. Just then a tiny little dot caught my eye. It was just about, just wanna see, but I watched it way too long. It was pulling me down. Allora riprendiamo, questi erano i Nine Inch Nails, Down in It. Down in It, scendiamo anche noi nella lettura della zantraglia, i mestieri del mare al tempo del container, all'interno dell'intestino del cargo. Le lingue di terra paludosa frastagliano la costa, ricoperta da distese di erba incolta e licheni dai fusti alti. Riparo per gli uccelli trampolieri dalle zampe lunghe e colorate che guardano i cargo sfilare veloci in lontananza. La partenza da Yenikoi, nel porto della Ford, è stata semplice, niente pilota, niente rimorchiatori. Ce ne siamo andati via semplicemente mollando i cavi. L'ormeggiatore con il casco bianco e gli occhiali da sole a goccia ci ha dedicato una mezz'ora sottratta alla sua pesca. Di nuovo in mare ci accorgiamo che la giornata a terra ci ha disabituato al clima condizionato della coperta. Fa freddo. La sera Johnny, il terzo ufficiale che ricopre anche il ruolo di medico di bordo, distribuisce aspirine e paracetamolo in quantità. Starnutiamo, tossiamo e tentiamo di passare più tempo possibile al tepore dell'aria aperta sul ponte. Non è una cosa sana perché attraversiamo di continuo campi climatici diversi e continuiamo quindi a raffreddarci. Passo la notte tramortito dai farmaci e dai decimi di febbre incerta e maligna che arriva e scompare. Mentre me ne sto nel letto, in balia del condizionatore, navighiamo a ritroso i Dardanelli, affollati ancora una volta di navi. Il Bosforo ora è alle nostre spalle, gli storioni beluga lo affrontano, nascosti nei fondali. Mi risveglio e scappo sul ponte. Ora siamo circondati da isole e isolette non lontani dalla vecchia colonia di Rodi. L'isola greca è lo spartitraffico del Mediterraneo orientale. Seguendo il profilo acuminato della sua costa, le navi si incolonnano verso tre direzioni. L'isola regola da secoli il traffico navale dell'arcipelago dell'Egeo, al punto da essere nota tra i naviganti come il semaforo dell'Egeo. Ma il master sa benissimo dove andare e navighiamo a pieno regime verso nord-ovest, il primo passo verso il nord Europa, e circumnavigare il Peloponneso. Incrocio il direttore di macchina preso delle paturnie provocate da un serbatoio di nafta che non passa carburante al motore. È saltato il filtro, chissà cos'altro. Annebbiato dai decimi, lo accompagno nel suo giro di verifica. Giù, il ventre della macchina è un intricato sistema di tubazioni, valvole, collettori, pistoni, assi e serbatoi. Nelle viscere metalliche del cargo si arriva scendendo delle rampe strette di scalini di ferro fino a una porta tagliafuoco di notevoli dimensioni. E una volta aperta, veniamo aggrediti da un rumore scomposto e assordante. Attraversiamo a passo svelto la passerella che ci porta al sicuro nel silenzio dell'ufficio della macchina, dove c'è il computer che amministra il motore. All'esterno, chiunque cammini nel locale motore indossa cuffie di protezione. Il mio raffreddore si trasforma in un mal di testa permanente. Il direttore di macchina fa i suoi controlli, poi alla testa di una squadra di 6 persone si dirige verso il congegno da riparare. I marinai di macchina indossano tute blu chiazzate da grasso e olio, proteggono il capo con magliette bianche arrotolate sotto la cuffia di protezione acustica. Io li seguo. Entriamo nella stanza del rumore, il motore ci scalpita a fianco. In pochi minuti, con un argano meccanico, tirano fuori da una pozza di olio lubrificante il pezzo da sostituire. Ci sono 3 italiani e 2 filippini. Non ne riconosco nessuno perché sono tutti troppo mascherati. La macchina è un posto da duri, bisogna proteggere ogni centimetro del proprio corpo. La temperatura media sfiora i 40 gradi, si suda e si scivola sul grasso che non riesce a raggrumarsi. Laggiù si governa la potenza del motore, il moto della nave, i giri delle eliche, l'elettricità per le luci, le TV e gli strumenti di bordo si gestiscono i flussi delle acque nere, stipandoli e depurandoli. Gran parte della merda del piscio dei marittimi viene utilizzata per il raffreddamento del motore o per altri usi che i più preferiscono non sapere. Sul cargo contemporaneo non ci sono più gli ottonai, quei marinai che sulle navi passeggeri si occupano di tenere libere le tubature di scarico e ripassare i cessi delle cabine intasati da carta e da chissà cos'altro. È un mestiere infame e in macchina sanno che in caso di problemi gli ottonai verrebbero scelti tra loro e nessuno ha voglia di andare a rimestare nella merda. Per cui si fanno funzionare sistemi idraulici alla perfezione. 2 filippini sono entrati all'interno di un enorme pistone e sembrano 2 satiri bionici con il busto umano e le gambe a forma di pistone. I colleghi gli passano pezzi di ferro levigato che diventeranno tra breve componenti attivi del motore. La sala macchine è ricoperta da un rivestimento di pittura ignifuga crepato dalle vibrazioni e dagli urti da cui cadono polvere e residui filamentosi. Pur mimetizzato, l'amianto si nota, non potrebbe essere altrimenti, mi dice il direttore. Nessuno ha ancora inventato un materiale ignifugo migliore, anche se poi ti fa venire il cancro. In culo alla Bestos Free. Sono nell'intestino della nave che spreme e riutilizza succhi fisiologici e artificiali. Il sangue della nave è un misto di olio, nafta e fuel grezzo che circola per tutto il cargo. Regolato dalla sala macchina con un sistema di contrappesi idraulici azionate da valvole e ventricoli. Il rumore è sempre assordante. Ci ripariamo per qualche minuto nel deposito dei pezzi di ricambio, isolato dal resto dei locali. trovo scaffali ricolmi di utensili, componenti ancora imballate. È una bella scorta, perché quando un guasto capita in navigazione è compito dei macchinisti non far fermare la corsa della nave. A fianco a questi locali c'è l'officina con il tornio dove i pezzi vengono aggiustati o adattati alle necessità del lavoro certosino dei marinai meccanici. Gli avvicendamenti dei vari direttori di macchina portano ad accumulare molti pezzi di ricambio che l'armatore manda a bordo con eccessiva parsimonia. I componenti ordinati di norma vengono recapitati al direttore successivo. Dalla prospettiva della macchina, la nave resta e l'equipaggio ad essere transitorio. Per risalire verso la coperta passiamo di fianco alle grosse cisterne dei serbatoi. C'è nafta per arrivare due volte dal nord al sud. Anche il pino si fa una volta a giro e sempre ad Anversa. Il carburante della macchina però non è l'unico a bordo. La nave è una bomba galleggiante, mi fa enfatico il direttore di macchina. Altro che materiali non pericolosi, continua, e si riferisce purtroppo ad un dato di fatto. Le automobili, i furgoni e gli altri mezzi che abbiamo nei garage hanno nei loro serbatoi dai 2 ai 5 litri di benzina o diesel per fare i movimenti di carico-scarico. Non è raro infatti che durante i trasbordi o delle operazioni di shifting alcuni veicoli si fermino improvvisamente con i serbatoi vuoti e allora si succhia con una pompa elastica la benzina da qualche altro mezzo, bruciandosi un bel po' di papille gustative. Tutti questi serbatoi possono esplodere da un momento all'altro, basta o non nulla, che ne so, una scintilla di un cortocircuito, visto che in coperta i marinai non sono capaci neanche di cambiare una lampadina, oppure una sigaretta mal spenta. Portiamo 3 litri per 4.000 macchine. In pratica siamo una cisterna che galleggia. Insomma, il direttore di macchina sostiene che il nostro cargo in realtà è potenzialmente esposto ai rischi di incendio non meno di una petroliera, anzi, forse di più. Io sono devastato dal caldo, dal rumore e dall'aria satura di effluvi di carburante che mi danno alla testa. Seguo i suoi ragionamenti in maniera confusa, annebbiata. Mi conduce di sopra, all'aria del ponte la vista mi ridiventa stabile. Brutto quell'inferno, eh? Ma senza di noi la nave è morta. Tieni, fumaci sopra. Vediamo il Peloponneso in lontananza. Fumiamo le Marlboro rosse di produzione americana. Alla terza boccata guardo il filtro della mia sigaretta che è diventato nero di grasso. Uno sbuffo della macchina mi ha lordato la mia bella camicia color khaki. Oh, E questi erano Three Dog Pool, per spezzare un attimo la lettura della Zandraglia con la controinformazione, con il brano Green to Red. Ora passiamo con le due notizie di controinfo brevi. Arrivano tutte e due dal Cile, una da Temuco, dove il 7 settembre 2013, l'avevamo già ricordato, Yarisa Grandone e Ariadna Torres hanno accettato un procedimento con rito abbreviato per possesso di esplosivi negli attentati contro il quartiere generale delle forze speciali e la direzione regionale della gendarmeria. Inizialmente la condanna era stata di 541 giorni con pena sospesa, ma la procura ha deciso di presentare il ricorso alla Corte d'Appello richiedendo una pena più elevata. Infine il 15 ottobre la Corte ha ampliato la condanna a 3 anni di libertà vigilata. Ricordiamo intanto che la terza compagna arrestata, Roxana, non aveva accettato il rito abbreviato ed è stata prosciolta da tutte le accuse. Invece l'altra notizia, che come dicevo sempre da Cile, è stata rifiutata la libertà vigilata per il compagno Anthony Mar. La Corte d'Appello di Santiago ha discusso la richiesta della difesa in merito all'ottenimento della libertà vigilata del compagno Hans Niemeyer. Hans è stato condannato il 12 luglio 2013 a 5 anni e un giorno più 300 giorni di carcere per porto di un dispositivo esplosivo e danneggiamento, dopo un processo e un'indagine basata sulla legge antiterrorismo per l'esplosione di un ordigno di una filiale della BCA. Dopo questa sentenza la difesa ha chiesto di nuovo un processo o la modifica della sentenza. Il 25 settembre 2013 la Corte Suprema ha rifiutato la possibilità di svolgere un nuovo processo, così la difesa ha fatto un nuovo ricorso chiedendo la libertà vigilata. Il 29 ottobre alla fine la Corte d'Appello con decisione unanime ha rifiutato la richiesta, confermando i quasi 6 anni di carcere da scontare. La sentenza fascista della Corte ha tenuto, tra le altre cose, conto della posizione della gendarmeria. Allora, queste erano le due brevi notizie di controinfo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Scarlet Remains con il brano Bitter Cold in Dry Season. Poi dopo si torna qui e si legge il penultimo capitolo del libro La Zandraglia. We'll be right back. Scarlet's Remains, bitter cold in a dry season, un freddo amaro in una stagione asciutta, ci introducono alla navigazione celeste. Il turno di guardia notturna scorre via sonnolento. Giacomo, l'allievo ufficiale proveniente da Roma, sorseggia un caffè mentre Johnny, il terzo ufficiale, è di nuovo curvato sulle carte marine a disegnare le rotte per il viaggio verso il Northbound, il giro del nord. Abbiamo già l'ETA, che non sono i compagni baschi, ma il Established Time Arrived, il tempo stimato di arrivo a Salerno. E l'equipaggio aspetta con ansia il porto campano, dove riceverà le visite di familiari, mogli o fidanzate. Manca poco per la staffetta che dà inizio al giro del nord. Un sibilo elettronico attraversa il buio, seguito da dei bip bip martellanti. È un segnale di allarme. A bordo c'è qualcosa che non va. Il terzo ufficiale si affanna al telefono, destato improvvisamente dai suoi viaggi cartacei. Parla con la macchina. La nave comincia a vibrare. Il condizionatore va in tilt e si spegne, lasciando le eliche degli areatori a girare per inerzia. In pochi minuti incominciamo a sudare. Le narici però respirano meglio, anche se l'aria ora è viziata dal fumo delle sigarette e dall'odore dei detersivi di cui il linoleum dei pavimenti è impregnato. Il tremolio della nave aumenta. Bisogna avvertire subito il master, anche se è notte fonda e dorme. Le luci dei monitor lampeggiano, sembrano impazzire, sono in allarme. Il comandante non risponde, ma solo perché sta già entrando nella plancia di comando, infilandosi la camicia nei pantaloni, ai piedi calza zoccoli di legno. La canottiera sporge da sotto la camicia, spiegazzata dell'uniforme, il viso è ancora assonnato. Che c'è? Che succede? La nave continua ad andare. Il carico sonnecchia nei garage che, privi di areatori, raggiungono temperature africane. Di notte, gli effetti del sole del Mediterraneo orientale sono devastanti. È un fenomeno simile ad una insolazione del metallo che, con l'oscurità, rigetta il calore del giorno sui veicoli e sui container. Comanda, si è rotto un generatore, siamo in blackout temporaneo, il radar funziona, però intorno a noi non c'è nessuno, siamo liberi. Il master prende il binocolo e scruta l'oscurità. Chiama in macchina sbraitando e poi, percuotendo la nave con gli zoccoli, inizia a scendere giù nell'ufficio di guardia del motore. Lo seguo, poi lo precedo dandogli il tempo di aggiustarsi sommariamente. L'aspetto ritorna a essere quello marziale di un comandante di lungo corso della marina mercantile, ma quando apriamo la porta spezzafuoco della sala macchine ci immergiamo nel rumore assordante, nel caldo. Tre uomini vestiti come l'Elephant Man di David Lynch si aggirano attorno al generatore galeotto. Il direttore di macchina si ritira nell'ufficio con il master. Un macchinista si addentra nella camicia del generatore e ne fuoriesce dopo qualche istante serrando il pezzo danneggiato. L'inghippo è svelato. È cosa di poca entità una fesseria caffè. I ricambi ci sono. Il comandante allora mi fa un cenno e risaliamo in coperta. Dopo 10 minuti la plancia è ancora piena di fumo di sigarette. Apriamo i finestroni laterali. L'aria marina ci aggredisce. Entra vischiosa in plancia mescolandosi al fumo. Navighiamo sotto una miriade di stelle che partono dall'orizzonte nero del mare. Occhi belli, vieni qua! E se adesso rimaniamo senza corrente, come facciamo ad arrivare a Salerno, eh? Ma che ne sai tu? Lo conosci il mare? Tu solo un simulatore hai visto. E il comandante apostrofa Giacomo, l'allievo, abbracciandolo e spingendolo con forza verso le finestre. Mi fa cenno di seguirlo e prendi il binocolo, mi dice. Svegli per svegli, perlomeno facciamo qualcosa di utile. E il master inizia a parlare delle stelle e della navigazione celeste. L'orsa maggiore ha avuto parecchi amanti, dichiarati o meno. Le stelle della sua costellazione indicano l'occidente, seguendo nella spezzatura inferiore, chiamata anche la coda del carro, e si riesce a individuare la stella polare che dista 3,5 volte la misura della sua coda verso l'alto, indica il settentrione. Seguendo la spezzata superiore del carro arriviamo ad Alfecca, stella solitaria ed estremità meridionale della costellazione del Sagittario, che comprende le stelle di Alfa, Beta e Gamma. La stella è sfuggente, non è la stella Maris, e neanche Venere, né le affascinanti punte di luce di Cassiopea. Alfecca si rivela nel buio del mare solo a occhi esperti, allenati a riconoscere il pulviscolo stellato che copre l'incedere del cargo. Di notte il mare è muto, è il cielo che parla ai naviganti. Socchiudendo gli occhi intravediamo la corona boreale, un piccolo insieme di gemme celesti curvilineo, un po' civettuolo, nascosto tra le costellazioni del Sagittario e della Bilancia. Il master allora incalza Giacomo, gli dice che le stelle hanno predetto le peggiori piaghe del mondo. Gli sciami di locuste sono annunciati dall'oscuramento di Venere. Le grandi epidemie di peste, colera e tifo, seguono lo spostamento della posizione di alcuni astri. E quando non ci sono le stelle, è la luna a parlare. Quando è in piedi, il marinaio dorme sul mare tranquillo. Quando è stesa sull'orizzonte, il marinaio resterà insonne, disturbato dalle onde del mare, in burrasca o in procinto di agitarsi. La storia delle stelle è racchiusa in un volume rilegato in cui l'inchiostro su carta descrive la magia delle stelle e svela i movimenti, le posizioni, le stagioni e il tempo. È il libro delle effemeridi. Il master non è ancora soddisfatto, scava in un armadietto di legno e ne tira fuori un vecchio sestante di ottone lucido. E se non ci fosse questo, ce ne andremo alla deriva, sentenzia. L'oggetto di ottone brilla, illuminato dall'unica lampada della plancia, e il sestante funziona seguendo un equilibrio interno che può essere stravolto se le sue parti e il suo asse vengono modificate. Per questo è fatto di ottone, un metallo con una dilatazione termica molto bassa che soffre di meno gli sbalzi di temperatura. E in effetti il master ha preso il sestante da una teca di pelle attenuta a stagna, dove lo conserva per preservarlo da possibili intemperie. Il dispositivo ottico che ora il master ripone con cura nella custodia è la protesi dell'occhio umano per circoscrivere l'orizzonte al sole o sotto le stelle. È un'assicurazione sull'orientamento in mare, ma ormai nella marina mercantile sono sempre meno quelli capaci di usarlo. Il radar sostituisce la vista e la mente umana in maniera totale. Ci si affida a intelligenze meccaniche e artificiali. Le rotte sono tracciate da database che incrociano dati. Quella del comandante sembra una lezione di storia concreta più che di astronomia marina. In Francia stanotte ho assistito all'incontro tra due mondi, due modi di navigare, quello antico della razza del master e l'altro ipermoderno di Giacomo, allievo mestierante del mare al tempo del container. Il rumore degli zoccoli anticipa il master, che ci dà la buonanotte. Si accende una Marlboro, fa due boccate e saluta. Imparate a fare i marinai e non i marittimi. Thousand. Verso Gibilterra. Tra il canale di Sicilia e lo stretto di Gibilterra, il cargo fa ancora due o tre scali, in Italia e in Spagna. È già a nord, ma è ancora mediterraneo. Non ci sono ancora le onde lunghe, i tifoni e gli uragani, ma il mare riserva altri pericoli. Le trombe d'aria, le mareggiate, le secche, oltre a quei container semigalleggianti che si incontrano spesso nella baia di Gioia Tauro in Calabria. È lo specchio d'acqua antistante al decimo terminal container più grande del mondo per volume di traffico e dimensioni. È il porto madre del Basso Tirreno. I cargo che vi arrivano portano sullo scafo le alghe del Mar Rosso e i parassiti raccattati nelle chiusi del canale di Suez. Quel terminal è immenso. Ma noi lo vediamo sfilare veloce, non è mica la nostra destinazione. Il porto delle Endrine calabresi è tenuto a distanza, si vira verso Stromboli. I container sono lontani e la sciara del vulcano non è ancora iniziata perché è solo la penombra. Ci facciamo larghe tra decine di pescherecci che tirano su crostacei e reti spadare cariche di pesce. La pesca di frodo oggi dipende dai metodi e dalle quantità. Chi ha la licenza deve rispettare dei parametri di correttezza verso l'ambiente marino, le reti dalle maglie standard, non eccedere nel tonnellaggio del pescato, rispettare le acque nazionali. A un uomo di mare sembrano norme di mero buonsenso. Il mare si rispetta, si teme e forse, solo talvolta, si doma. Nel Mediterraneo non si pescano merluzzi a tonnellate come accade nell'Atlantico e nel Mar Baltico. Non ci sono le centinaia di migliaia di esemplari di pesce persico che popolano l'Oceano Pacifico e quello Indiano. Il pesce è pregiato, scarso e non facilmente commercializzabile. Il pescato minuto del Mediterraneo è restio a farsi trasformare in cibo industriale, in bastoncini per intenderci, in scatolette, in prodotti dei brand internazionali del surgelato. La mattanza è di pesce spada, di tonno, di squalo, di delfini, di balenottere e di tartarughe caretta caretta. Pesci grandi, grassi, dalle carni tenere, da mangiare crude, magari alla moda giapponese dell'inizio del secolo globale. Il pesce che sfugge ancora alla pesca totale è quello azzurro. Alici, sarde, pesci bandiera, aguglie, palamiti e palombi e tutte le altre specie acclamate nella canzone barocca del Sarracino. Si salvano anche i pesci di fondale, gli scorfani, le pescatrici, le razze. Intorno a noi banchi di calamari si accalcano alla luce delle lampade dei pescherecci. Gli uomini non fanno altro che tirarli su con le mani protette dai guanti ruvidi che agguantano i cefalopidi viscidi. Il pesce mediterraneo, quello di Paranza, era cibo per poveri, per gente abituata a mangiare il mare e non a consumarlo. Adesso è un cibo slow, sempre più ricercato e caro. Verso le 8 del mattino arriviamo di nuovo a Salerno. A bordo c'è fibrillazione, si aspetta lo sciame di donne, mogli, madri, sorelle, fidanzate che vogliono approfittare della sosta della nave, che in questo porto generalmente è lunga. All'insaputa dei più, però, i programmi sono cambiati. Si riparte già alle 13 a Savona. Prossima tappa, ci sono degli avvicendamenti imprevisti. Cambia il comandante, così da un giorno all'altro. E per cui il nostro master è nero, di umore nero. Il suo turno di imbarco sarebbe finito giusto in tempo per fare Natale a terra. Invece, gli anticipano la pausa e sarà costretto a iniziare un nuovo imbarco proprio alle soglie del Natale. E pur di passare il Natale a terra, i naviganti pianificano gli imbarchi, fanno regali ai dirigenti armatoriali, si sentono male al momento giusto nel porto, giusto. Ma il comandante non è il solo ad avere l'umore nero. Chi aspettava una visita si vede costretto a sfiorare appena i propri cari. Appena la rampa ha iniziato a graffiare la banchina, il secondo ufficiale e l'allievo di macchina sono schizzati a terra in cerca delle fidanzate arrivate rispettivamente da Gaeta e da Messina. Dopo la colazione ritornano sornioni presentano le fidanzate al comandante e al primo ufficiale, poi si infilano in cabina. Gli ufficiali in coperta mugugnano seguendo il carico, con le famiglie di fianco, mentre dei bambini mocciosi giocano tra i container della banchina. Quando salpiamo e ripartiamo, il master è taciturno. Segue le manovre in plancia, tallonato dal suo sostituto che sbarcherà in tempo per Natale. Salpati, il comandante fa partire un lungo suono di sirena a mo' di congedo. Filiamo veloci, passiamo al largo di Capri, nelle acque dove tanti traportuali marittimi hanno trasbordato le sigarette del contrabbando. In serata siamo già all'isola d'Elba, la costa. È un filino di luci, l'Italia dal mare. Si intuisce ma non si vede. A notte fonde arriviamo alla curva Ligure, quel tratto di costa dove lo stivale inizia a piegarsi. L'alba la vediamo a Camogli, poi siamo fuori Genova. Le gru del porto proteggono la città schiacciata tra mare e colline. I carruggi sono una matassa di palazzine che calano fino al mare. Nelle banchine a petti, nelle portacontenitori, uash, quelle arabe, ciondolano sonnolentemente. La zantraia di Genova, si dice, è finita con l'arrivo dei contenitori. Dalla nave vediamo le industrie dismesse del ponente ligure genovese, le cicatrici sul territorio dell'industrializzazione a partecipazione statale. Si intravedono i luoghi dove un tempo gli stabilimenti dell'Ansaldo e delle altre fabbriche occupavano decine di operai meridionali arrivati a frotte nel secondo dopoguerra. Cicli produttivi H24 sfornavano i manufatti che hanno costruito l'Italia, il metallo, e garantito il suo ingresso tra le nazioni più industrializzate del mondo. Adesso gli stessi luoghi, un tempo animati di vita e rumori metallici, da rumori gassosi delle ciminiere e dai pennacchi di fumo perenni delle raffinerie, sono silenziosi. Osservano i container e le cisterne della logistica integrata scorrere su strade e rotaie verso il Piemonte, la Lombardia dell'alta velocità e la core area dell'Europa occidentale. I capannoni dell'IKEA, del Mercatone 1, di Castrorama hanno preso possesso dei terreni votati per più di un secolo all'industria pesante. La landa della dismissione industriale ligure segue un groviglio di binari e carreggiate che sfilano risalendo il torrente Polcevera. Asfalto e binari si accavallano intrecciandosi a margine di quello che è stato il principale porto italiano, che è un susseguirsi di spazi adibiti a punti di interscambio della logistica integrata. Uno di questi è il piazzale retroportuale di Fegigno, 6.000 metri quadrati da cui partono due tracce ferroviarie ormai frettolosamente tombate, ovvero ricoperte con l'asfalto. Lo spazio era destinato a diventare il nodo di interscambio di container movimentati con i treni, in un affare che coinvolgeva e coinvolge Trenitalia. La società di gestione dei binari RFI è la Terminal Gest, una ditta logistica implicata in più casi di smaltimento abusivo di rifiuti nocivi. A Fegigno, dal 2001, sarebbero dovuti passare 10.000 container, ma da quelle palazzine rosa che ospitano gli abitanti dei tre condomini che vi si affacciano, ne avranno visti muovere non più di 30 di container, la metà dei quali giace ora abbandonata e svuotata all'ombra di un capannone vuoto e di una struttura abitativa fatiscente. Per un paio di anni in quest'area ci ha vissuto, nella solitudine di un cimitero, una famiglia di immigrati irregolari cileni, poi scacciati dalla sbirraglia locale. In seguito dell'area ne ha preso possesso Carlo, che oltre a esserne il custode è anche il prestanome della Terminal Gest. Al principio non ci viveva, si occupava soltanto dei cani e sorvegliava l'andirivieni dei tir portacontainer che utilizzavano abusivamente l'area. Lui era nato a Via Pre, strada del centro storico genovese nota per traffici, puttane, contrabbando e la presenza di immigrati prima meridionali e poi successivamente extracomunitari. Carlo ha vissuto tra i carruggi fino a 20 anni in una casa dalla porta senza serratura, munita soltanto di un sottile spaghetto di metallo che manteneva la porta per evitare gli spifferi. Divenuto maggiorenne, trovò moglie e si trasferì dalle parti di Cornigliano nelle nuove case di edilizia popolare. Poi, per decenni, ha girato il mondo seguendo il suo mestiere, che era quello di riparatore navale. I suoi occhi, ricoperti da una sottile cataratta, ricordano i cantieri del Golfo Persico, degli Stati Uniti e del Nord Europa. Nel suo lavoro ha visto centinaia di scintille di saldatrice mentre rovinava le sue mani sempre più callose sul ferro delle carene dei carghi in bacino di carenaggio. Poi un giorno il suo nomadismo operaio è terminato a Feggigno. Adesso la sua casa è l'area retroportuale. Qui si prende cura di un Dug Master, dalle ruote sgonfie, di un forklift, dalle bene arrugginite. I mezzi che servono a sollevare e spostare i contenitori suggellano l'abbandono. Sono le lapidi involontarie di un cimitero di container, un simulacro post-industriale diventato il rifugio di Carlo, il capobranco dei suoi 40 bastardi neri. Più un Doberman e un pastore tedesco tutto bianco. Il cancello d'accesso è chiuso da una catena doppia e i cani vi si accalcano ogni volta che un visitatore sbatte sulle sbarre per entrare. Di persone qui in realtà ne vengono poche. Una donna porta una volta a settimana degli avanzi di carne che Carlo fa bollire in una grossa marmitta riscaldata dal fuoco di due ceppi di legno trattato. Il capannone che avrebbe dovuto proteggere i colli di merci da imbarcare o da immettere nel door-to-door della logistica integrata perde lentamente i pezzi che diventano combustibile per la cucina da campo improvvisata. Le vecchie industrie ormai fungono da ripari informali per gruppi di immigrati clandestini e senza tetto. Capannoni abbandonati vengono riutilizzati in maniera informale, viene restituita vita ad una landa dove regna il silenzio e l'abbandono, la maccaia, quel residuo di scirocco tipico di Genova. Non prende forma sulla costa abbattuta da un vento incessante, ma di volta in volta arriva dal mare della montagna incombente. Il cimitero di quei dei container testimonia il disequilibrio della dismissione incontrollata, l'inefficacia di politiche di riconversione industriale che lasciano spazi troppo spesso privi di un reale progetto di riutilizzo pubblico e quindi in preda a usi privati votati al profitto. Mentre gli sfiliamo davanti, Carlo congela i cadaveri dei suoi cani più anziani in attesa di portarli all'inceneritore. Il container freezer è l'unico che ancora funziona. Chissà cosa conteneva prima di diventare un loculo collettivo di bestie dismesse, una fossa comune postmoderna. Proseguiamo. Il lanternone, la lanterna di Genova è già lontana, accostiamo per ormeggiare la diga foranea di Savona, mi affaccio dal ponte della nave sul molo, ci aspetta un serpentone di macchine Fiat allineate a coppie di due, ancora auto e più in là ancora container. Mi consolo pensando che mi sveglierò tra la fortezza di Antibes, così simile ad una tartaruga acquattata, e il porto di Marsiglia. Continuerò a compilare piani di carico mentre Barcellona e le Baleari mi sfileranno accanto mute. Fumerò una sigaretta osservando le gabbie per tonni a largo del Marocco, quasi a Gibilterra. Sono uguali a quelle ancorate alle boe del braccio di mare che separa Lampedusa dalla Libia, talmente uguali che vi si riconoscono gli stessi profughi del mare aggrappati mentre tentano di rintuzzare gli assalti dei tonni eccitati. E gli uomini che attraversano il mare finendo seppelliti nei fondali scompaiono. Al tempo del container, emigrare è diventato un mestiere del mare, un ulteriore mestiere. Gibilterra è l'unica strettoia tra Africa ed Europa, dopo c'è l'oceano. In questo sfiorarsi di coste gli uomini si ammassano più dei cargo, che pure passano numerosi. Barche dal carico umano, piccole e traballanti, da queste parti sono più pericolose dei mercantili e delle petroliere cariche di greggio. Gli uomini affogano, le navi affondano, ma sopravvivono. Si racconta che relitti semiaffondati e navi dismesse lasciate alla deriva continuino il loro viaggio pilotati da marinai fantasma e arrivino tutti nei pressi dello stretto di Bering, il cimitero dei cargo, simile alle lande della morte degli elefanti. Carcasse di ferro sbattono sulle rocce, si arenano e si sciolgono nel mare senza che nessuna lapide resti lì a ricordarne le gesta. Campo di mela, a bordo, Ostuni, Genova, Cano, Napoli, 2007-2012. Ecco, questo ultimo capitolo, abbiamo finito il primo libro della seconda stagione di Radiazione per quanto riguarda anche le letture, quindi finisce oggi la Zantraglia. Ultima, brevissima anticipazione prima di tornare alla controinformazione. Dal lunedì prossimo continueremo a stare sul mare, andiamo qualche secolo indietro e torniamo a leggere un ciclo di un autore che ci piace, nonostante alcune contraddizioni, nonostante la sua pubblicazione per una delle case editrici meno raccomandabili sulla scena italiana, che è quella di Mondadori. Però il ciclo dei Pirati di Valerio Evangelisti ci terrà compagnia nelle prossime dirette d'azioni, e crediamo che perlomeno in questo caso i contenuti prevalgano sulla forma e soprattutto sul modo di renderla fruibile a noi altri. Noi con queste letture ricordiamo che vogliamo anche cercare di uscire dai confini di una cosa mercantile, mercificata della letteratura, delle cose, leggendole. E chiaramente chi vuole, chi ci ascolta, oltre reinvitiamo a scriverci, non abbiamo il tempo di scannerizzare, di farli, leggiamo, e chi vuole poi leggerseli senza la pessima pronunzia del sottoscritto, dicendo, può sempre recuperarli come vuole. Sono abituati a sottoscritto, meglio. Quindi saranno a posto. Allora, quindi l'appuntamento è per la nuova lettura. Cominciamo da Tortuga. Si inizia da Tortuga, quindi voglio ricordare anche che vengono letti dei libri che non sono anarchici, però si cerca sempre di trovare qualche libro che comunque abbia dei contenuti che bene o male, perché leggere libri anarchici non sono anarchici tu pur, soprattutto insistiamo su una questione di letteratura e non di saggistica, che la saggistica ce la leggiamo nella serietà della concentrazione individuale. Non sono anarchici, ma sono delle suggestioni che ricalcano quello che noi tentiamo di vivere quotidianamente, di praticare, così come. E quindi ora si passa a un testo per quanto riguarda un tema che ultimamente è uscito, ma è un tema per chi vive in Campania, ma chi vive in Sud Italia comunque è un tema molto conosciuto, ma da anni e anni e anni, però a volte quando lo Stato non arriva più a mangiare su certe cose, fa uscire le cose attraverso la stampa, e poi dopo la stampa arrivano subito gli avvoltoi di turno che organizzano cortei, manifestazioni, si parla, per esempio ora il prossimo testo riguarderà il tema della Terra dei Fuochi, un tema che è uscito ultimamente fuori, ma che, come dicevo prima, era una cosa che comunque a Napoli si sa da una vita, quindi già era bisogno della stampa per rifarlo uscire fuori e per organizzare pure manifestazioni, queste cose qua. E a queste latitudini è una cosa che frequentiamo da anni, sì. E ci chiediamo, visto che tutta quanta i grandi lavori, le grandi opere, a noi l'indignazione non piace, nel senso che non siamo indignati, non ci indigniamo di un cazzo. L'indignazione è una cosa molto cattolica. Siamo arrabbiati, abbiamo il fegato quattro volte di quello che dovrebbe essere, non per i problemi, eppure per il cibo che ci mangiamo. Quindi, leggiamo un testo e poi si fa una chiacchierata in base al tema che ascolterete leggendo questo testo. Allora, sulla devastazione ambientale a Sud Italia, F-Diesis 1. Il Sud, cos'è il Sud? Una posizione geografica del quadrante della bussola. Il Mezzogiorno, cos'è il Mezzogiorno? Una posizione temporale del quadrante di un orologio? Sud-Nord è una questione di prospettive, è una nomenclatura gerarchica imposta dai dominanti, Caserta più a sud di Atene, Giuliano di Napoli, Quaiano, Caivano sono più a nord di Salonicco, Acerra, Aversa, Castelvortuno sono più settentrionali di Tangeri o Marsiglia. Perché nascono queste considerazioni? Noi individui libertari e anarchici siamo cresciuti disconoscendo le frontiere, rifiutando i localismi, ci risentiamo a casa ovunque si manifesti un refolo di tempesta o solidarietà. Eppure vivendo qua giù, a cavallo tra costa antropizzata e entroterra devastato da un'urbanizzazione micidiale e senza freni, ci ritroviamo a fare conti con il nord e il sud, con il movimento civilista di cittadini normali, le famiglie, i preti, le suore, gli attivisti non violenti, gli ecologisti di facciata, i consapevoli, gli intellettuali impegnati, i vari disobbedienti ordinati in truppe militanti anticamorre, che richiedono a gran voce il ripristino della legalità nella terra dei fuochi, l'avvio di bonifiche, la fine di quello che hanno chiamato il biocidio. Ricordo che anni fa, quando in un quartiere periferico di Napoli chiamato Pianura fu minacciata la riapertura di una discarica già contaminata in maniera irreversibile, mi ritrovai tra individui mascherati a lanciare pietre ed erigere barricate per fermare l'arrivo della celere. Mi ritrovai con persone sconosciute al mio fianco ad appiccare incendi, a correre, a mimetizzarmi nel buio. E vedevo i capannelli di politicanti sogghignare, ascoltavo i proclami. Intorno a me la puzza di bruciato inebriava chi era in strada, ed erano tanti. Soltanto dopo abbiamo capito che chi era con noi non la pensava come noi. Erano ultra individui, uomini e donne, che vengono disprezzati e chiamati sottoproletariato, marginali, microcriminali, di nuovo ultra. Solo dopo abbiamo capito che chi era con noi agiva come noi e io come altri. Eravamo lì per ostacolare una devastazione del territorio, il loro territorio, il nostro territorio. Eravamo lì, senza rispondere a nessuna chiamata, nessun appello indignato, nessuna presa di coscienza. Eravamo lì perché era l'unica cosa da fare. E ci siamo ritrovati. Siamo riusciti a incendiare non solo i cassonetti straripanti di rifiuti della società dei consumi, ma anche le automobili, quei simboli intoccabili della stessa società. In quell'agire, dietro di noi, dietro di me, che non ero me perché mascherato e irriconoscibile, molti altri hanno infranto regole, ordini, discipline imposte da altri che erano lì per lucrare sulla disperazione diffusa e la rabbia spontanea. In quei giorni si lottava contro la monnezza o contro il dispositivo che la rendeva visibile, un meccanismo che escludeva il riutilizzo, il riciclo, la coscienza ecologica, una forma di accumulazione e profitto talmente evidente che smuoveva perfino le menti più annebbiate. Un lessico per capirci, FDSIS 1, terra dei fuochi, il territorio compreso dalle province di Napoli e Caserta, altrimenti detto tra terra di lavoro, laddove lo schiavo Spartacus detta vita alla sua ribellione. Dalla metà degli anni 80 sono stati interrati i rifiuti tossici di provenienza industriale, attualmente vengono bruciati con l'ausilio di copertoni usati rifiuti di natura diversa, dagli elettrodomestici alle vernici, alle rumenta agricola, ai rifiuti di ospedalieri e sanitari. I fuochi si notano grazie ai pennacchi nero pece che quotidianamente si innalzano a margine di campi, superstrade, autostrade e ferrovie, la TAV meridionale che è già in realtà da tempo, e varie giungle d'asfalto disseminate tra centri commerciali e capannoni ambigui. FDSIS 2, la legalità. Idea, l'idea secondo cui il ripristino del controllo dato dallo Stato sulla produzione di ricchezza, l'uso del territorio, l'impresa, il lavoro, la macchina amministrativa sia la condizione fondamentale per la rinascita del Sud italiano, o quantomeno per un allineamento agli standard nazionali e europei. FDSIS 3, bonifica, attività di movimentazione, terra alta a rimuovere rifiuti tossici di natura industriale da sottosuolo e ripristino delle naturali condizioni del territorio. Biocidio, strage di persone, flora, fauna e attività economica dovuta al seppellimento illegale di rifiuti tossici. sue manifestazioni sono l'aumento dei tumori tra le popolazioni locali, avvelenamento di falde acquifere, di terreni agricoli e di pascolo, ma anche lo stoccaggio in siti recintati di ecoballe, di rifiuti solidi urbani e dislocazione di discariche incontrollate divenute di recente senza equiparata a territorio militare. Generalmente si è raccontato che la terra dei fuochi è stata inquinata con rifiuti industriali provenienti dal nord. In realtà il martirio di queste contrade è l'effetto combinato del degrado umano che non ha più latitudini, il lato palese della civiltà industriale che corrompe e annulla forme di resistenza, ed è proprio di queste ultime che si vuole parlare. Da settimane la popolazione civile scende in piazza, organizza cortei e presidi che non lasciano tracce di sé. Nessuno scompiglio rabbioso ha interrotto il quotidiano. La grande metropoli, Napoli, vicina alla terra dei fuochi, assiste apatica. Dalle sue strade non si leva nessun pennacchio di fumo nero. Anni fa, contro le discariche e gli inceneritori, così come fu fatto in Grecia, era un moltiplicarsi di azioni spontanee. Ricordate i fuochi artificiali che illuminavano la notte gli sbirri a Terzigno, alle pendici del Vesuvio? Oggi la richiesta è quella di un intervento dello Stato con forme di videosorveglianza contro gli scarichi abusivi, maggiore controllo del territorio, elicotteri e droni utilizzati per proteggere il territorio. E da loro chi ci proteggerà? Siamo davvero sicuri che questo maledetto biocidio non sia l'effetto combinato di un'azione statale? Le ditte di smaltimento, gli inceneritori, eccetera, eccetera. È parastatale. La criminalità organizzata, il sistema dei subappalti, le connivenze, eccetera, eccetera. La sana rivolta ha lasciato spazio al piagnisteo, alla commozione fatta di lacrime di coccodrillo, l'esasperazione disarmata e impotente di una delle zone più popolose del paese. Che bonifica potrà mai fare il sistema che ha creato la terra dei fuochi? Che legalità potrà instaurare uno Stato che sguinzaglia la sbirraglia contro pochi ribelli e stringe accordi con gli interessi più nefasti? Allora speriamo che qualcosa cambi, che l'azione prenda il sopravvento sulla rassegnazione, che il vento porti tempesta, che l'area metropolitana venga ricoperta da fumo che non brucia rifiuti velenosi, ma le casematte di un potere che produce solo nocività. Continua ad abbassare a nuttata. E questo era il testo con la firma anonima su radiazione per quanto riguarda questo tema sulla terra dei fuochi. Ci piace pensare che questo tema possa essere ascoltato non solo nei territori più prossimi a noi, ma in tutto il paese, soprattutto in quelle situazioni a noi affini, a noi vicini, a noi solidali, e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che il meridione italiano, il sud italiano, così come in Grecia, sono gli unici territori che hanno sviluppato un movimento di massa spontaneo in cui degli individui consapevoli hanno saputo dialogare in qualche maniera con persone indignate. Visto che a noi l'indignazione non piace, ci chiediamo come mai, rispetto a questo tipo di argomenti, che sono argomenti evidentemente ipertrattati, evidentemente supertrattati da stampa di regime, da stampa civilista, per l'appunto l'associazionismo non violento, tutte quelle cose che sappiamo bene poi dove conducono, appunto conducono ai droni, conducono agli elicotteri, conducono alla criminalizzazione di una parte rispetto all'altra. E quindi invitiamo, visto che a Napoli oramai si stanno, a Napoli, in Campania in questo caso, si stanno facendo appelli a questa grande manifestazione del 16 novembre, e invitiamo ad un ragionamento, ad un interrogarsi sul forse questa necessità di intervenire come individui consapevoli nel trasportare una densità non solo degli argomenti, della critica, ma anche proprio dei fumi che si respirano, delle cose, di essere capaci di agire in un contesto sovradeterminato, molto mainstream, come si dice, spettacolare, sì. E di dire: noi siamo capaci di interpretarla in un'altra maniera e ci riguarda così come ci riguarda lo sventramento della Val di Susa, così come ci riguarda l'avvelenamento che Ansaldo nucleare e non nucleare fa in giro per il mondo e in Italia, così come in Cile vengono aggredite le comunità di indios, così come alla Novartis qua in provincia di Napoli inquina il fiume Sarno riversando tutti i rifiuti tossici a mare. La Novartis è proprio attaccata, è proprio a 10 metri dal confine tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, è riversa in mare continuamente residui chimici, insomma. Così come la foce del fiume Volturno è contaminata, sì, dalle industrie farmaceutiche, che sono le stesse che hanno dato anche vita a questi famosi roghi indignati della Terra dei Fuochi. Allora ci chiediamo: la metropolitana di Napoli che fa crollare i palazzi, anche se poi sono palazzi di ricchi, però comunque fa crollare dei palazzi, non si può fare di meno, perché quel palazzo che è crollato a Via Gaia comunque era un palazzo totalmente di proprietà di una sola persona, affittato ad altre persone ricche, cioè dell'alta borghesia napoletana, però comunque se è partito da quel palazzo poi potrà causare altri problemi per un'opera sostanzialmente inutile. E poi alle spalle di Via Gaia ci sono i quartieri più popolari, quindi con questa cosa qua la chiudiamo, perché poi andiamo oltre, siamo anche noi, anche poi la riprenderemo man mano fino alla... Ma lanciamo questo spunto di riflessione, diciamo, ai compagni che vivono in Italia, ma anche a chi ci ascolta fortunatamente da fuori dai confini nazionali, a dire: evidentemente questa vicenda ci suggerisce una serie di pratiche che possiamo mettere in atto su una questione in cui siamo stati protagonisti nel passato, che non è la richiesta di legalità. Allora no. Vabbè, con queste ultime riflessioni riguardante la Terra dei Fuochi chiudiamo qui la diretta d'azione di oggi. Ricordo l'appuntamento è per venerdì prossimo, dove ci sarà solo controinformazione e musica. Invece per la lettura e per lunedì abbiamo già anticipato il libro che si leggerà sui pirati di Valerio Evangelisti. Ricordo gli indirizzi utili: radiazione@autistici.org per la mail, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di mail, anche considerazioni, insomma, scrivete alla mail di radiazione, non c'è niente di male, non si rischia niente. Per chissà. I blogger chissà radiazione.blogs.org invece è il blog di radiazione, dove potete quotidianamente leggere la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltarvi le dirette d'azione. Da domani già potete, chi se ne è persa la prima parte, può riascoltarsi la diretta d'azione di oggi, oppure le vecchie, dove potete scaricare opuscoli, libri, manifesti e quant'altro, insomma. Per la radio la state ascoltando radiazione.listentumaradio.com, altrimenti attraverso il banner che trovate su Radiazione, sul blog di Radiazione, ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e appicciate Radiazione. Ora vi lascio con un brano di Drake's con We Are All Animals e l'appuntamento è a venerdì. We are all animals. We are all animals. We job is done. We are the disciples who have lost our way. Kicked from our pedestal when Darwin burnt the book. We are all animals, we are all animals, we are all animals, we are all animals. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.